nostra vita in terra. Altro non è che guerra, caspri nemici intorno, ci stan la notte e il giorno, e con arte inganno. Spesso cader ci fa, mondo si fa bello col vetro, con l'orpello, le carne con mal.

Yeah. Thank you. teatro mai non so. Thank you. Immortali, immortali, immortali.